Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. We'll be right back. L'arma ultrasonora, che ha già dato i suoi frutti in due quartieri, viene distribuita e duplicata anche in altri quartieri del centro di Nazero 13. Gli Insect, come i loro colleghi Tarspok, sono storditi dal suono acutissimo non udito dall'orecchio umano. A differenza degli uomini topo, però, possono starsene in volo molto alti e quasi non sentire l'ultrasuono. La Torre M è protetta da una migliaia di Tarspok che guardano a vista e tengono nel mirino gli insorti che distano circa 100 metri. Gli intossicati, arrivati dall'area nord, invece, si sono staccati insieme a decine di rivoltosi e si sono diretti alla Torre G, sperando che questa fosse meno protetta. Arrivati sul luogo, trovano già la torre assediata da altri insorti dei quartieri circostanti. A differenza dell'altra, la Torre G era sorvegliata solo da una cinquantina di Tarspok, che ora formano un cumulo di ossa fumanti proprio lì, davanti al portone. I refrattarios che hanno ripercorso la strada battuta da Alni e gli altri il giorno prima hanno recuperato il corpo del loro compagno e lo hanno seppellito in una zona più sicura in modo che nessuno lo trovasse. Sarebbe stato molto pericoloso se qualcuno avesse trovato il corpo di Alni, perché avrebbe significato il passaggio da quelle parti di Refractarius e di conseguenza sarebbe stato scoperto il tunnel con tutto l'arsenale bellico. I ribelli hanno deciso di non unirsi subito al resto della popolazione in rivolta, ma consigliati da Valerie decidono di attaccare il villaggio fognario nel sottosuolo, dove vive la comunità di Tarspok. Per farlo però bisogna calarsi nelle fogne ed individuare precisamente dove si trova il grande nido. Guidati sempre da Valerie, che conosce molto bene il sottosuolo della metropoli per averlo utilizzato molte volte negli anni addietro dopo le varie rapine in banca, i refrattarios si calano nella rete fognaria da un piccolo tombino. «Valerie, porco Cristo, ma proprio a noi tocca fare sempre il lavoro sporco!» Mark sembra essere quello che soffra di più il fetore di quel luogo. «Mark, se non ti sporchi le mani di merda qualche volta nella tua vita, non riuscirai mai ad arrivare al tuo scopo finale!» Valerie, con una mezza risata, ammonisce il suo compagno. «E dai, Mark, siamo già nella merda, e peggio di così non può andare!» Rose, che usualmente se ne sta zitta, ogni volta che apre bocca è come se lanciasse una sentenza, ma sempre col suo fare ironico. I refrattarios si prendono un attimo di pausa dalla tensione e ridono sulla frase appena citata dalla refrattarius. «Puoi anche approfittarne per fartela sotto, Mark, nessuno se ne accorgerà, a meno fino a quando siamo chiusi sotto le tazze dei cessi di tutt'anna 013, la battuta di Coram tira il freno definitivamente al cammino dei refrattarius che iniziano a ridere come dei matti. «Oh, e quanto la tirate per le lunghe! Avevo solo chiesto il perché sempre noi! Su, affoghiamo pure nella merda!» Mark non prende proprio bene le risa dei suoi compagni e quasi a sfidarli inizia a camminare di nuovo prendendo la testa del gruppo. «Mi sa che siamo vicini. Sento una musica in sottofondo!» Atin, con le braccia allargate, ferma per un attimo il cammino degli altri. «È da un'ora che camminiamo col sottofondo musicale, Atin!» aggiunge Aki, che poi, girandosi alla sua sinistra, si rivolge alla ragazza argentina. «Ashley, dio maiale, ti levi ste cazzo di cuffie dall'orecchio? Ti dà proprio noia sentire le nostre voci invece di quella musica del cazzo che sembrano i rumori di una fabbrica? Pendejo, andate a levare il culo!» Ashley non ha sentito le parole di Aki, ma dalle smorfie della bocca e delle mani ha capito che il refrattarios le stava urlando contro. «E calà, buongiorno Ashley! Poi mi dirai cosa cazzo hai detto, immagino solo che mi hai mandato a fare in culo!» Aki smorza i toni cercando di calmare la refrattarios. «È facile, Aki!» Con un sorriso a 32 denti Ashley significa «coglione, vaffanculo!» Mi sono strozzato di una risata fatta col naso arrivata dalle parti di Mark. «Te pensa a camminare, ti ho portato i pannolini di ricambio, tante volte l'hai già fatta sotto. Aki risponde a Marco con un tono ironicamente stizzito. Vogliamo ripartire o aprire un cabaret underground? Atin, sempre di una serietà glaciale, riprende tutto il gruppo di refrattarius. Sì, andiamo raga, aggiunge Aki. E mi raccomando, camminate mentre pregate Bakunin. Tiratevi anche una legnata in fronte ogni tanto, come facevano quei monaci in quel film. Coglione, risposta di Atin. Ok, e son due. Ora che abbiamo una bella coppia di coglioni, andiamo pure, fratelli e sorelle. Amen. Aki, in modo provocatorio, nei confronti di Atin, invita gli altri a muoversi. I refrattarius riprendono il cammino guidati da Valerie. Hanno già percorso un chilometro quando in lontananza vedono una luce. All'inizio pensano che sia una via d'uscita dal tunnel fognario e Valerie, facendosi accompagnare da Coram, va in perlustrazione. Dopo un centinaio di metri, i due tornano indietro dal gruppo. Ci siamo! Valerie sembra molto eccitato per aver trovato il villaggio di Talsbok. Non ci siamo avvicinati più di tanto perché non sappiamo se l'ingresso al nido di quelle merde sia sorvegliato, ma se vogliamo attaccarli prima o poi bisognerà affrontarli viso a viso. Coram mette in allerta i suoi compagni con un tono quasi molto rilassato, quasi come stesse invitando gli altri ad andare a mangiare una pizza. Indossiamo le maschere antigas e buttiamo via tutto quello che può fare attrito, oggetti metallici o elettrici. Valerie ha già un'idea. Andare lì sarebbe un suicidio, quindi faremo una bella grigliata di topo. Hai già un'idea, Valerie? Mark, con un'aria curiosa, chiede al suo amico i dettagli del suo piano. Lungo la rete fognaria si distendono anche le tubature del gas. Devo aggiungere altro? Io ho capito tutto. Mark è eccitato dal piano pensato dal suo compagno. Dovremmo forare i tubi del gas e questo è molto pericoloso, Valerie, aggiunge Coram. Hai ragione, Coram, ma si dovrà pur rischiare la propria vita se si vuole raggiungere la libertà. Io ho un conto aperto con i topolini e quindi sono felicissimo del rischio. C'è qualcuno che mi terrà compagnia? Seguono attimi di silenzio, poi. Io! Aki dà la sua disponibilità nel piano. Anche io. Mark segue a ruota. Ok, bastiamo in tre. Coram, Ross, Ashlyn e Atin. Dietro quella nicchia c'è un pezzo di tunnel che vi porterà all'esterno. Penso che impiegherete non più di 5 minuti per uscire. A quel punto noi tre iniziamo a forare molto delicatamente i tubi del gas, partendo da 100 metri prima del villaggio e arrivando fin qui. Nel caso i topi avvertono la perdita di gas e ci scoprono, preparate gli accendini. Quest'ultima indicazione di Valerie è diretta a Mark ed Aki. Prima di andare verso l'uscita, i quattro si fermano guardando negli occhi i loro compagni. Poi Ashlyn è la prima che si fa avanti e fa per abbracciare per primo Aki, che ironicamente l'ammonisce. Ashlyn, non sono mica già morto, pendejo! Eh no, i coglioni sono solo due. Abbracciando la ragazza, Aki si lascia cadere in una risata virale che infetta tutti gli altri. Andiamo su, prima si fa e meglio si sta. Coram invita le ragazze ad andare verso l'uscita. I quattro si avviano verso l'uscita, seguiti dagli sguardi di Valerie, Mark ed Aki. Ok, sono passati 5 minuti e gli altri saranno già col naso fuori da sta merda. Avviamoci verso il nido, che ora inizia il vero divertimento. Valerie invita a muoversi i suoi compagni di avventura. I due non dicono una parola, sono preoccupati, ma allo stesso tempo anche molto eccitati per l'azione che stanno per compiere. Thank you. Radioazione, diretta d'azione, lunedì 29 settembre, come ogni lunedì, diretta d'azione vedrà la controinformazione, in cui ci sarà controinformazione, ma soprattutto la lettura, come tutti i lunedì, l'ho ripetuto due volte. Stiamo leggendo il primo libro dell'anno, che è Nessuno ci salva, di Sergiu Piasecki, lo stesso autore. Già un anno fa abbiamo letto L'amante dell'orsa maggiore, per chi segue le letture di su Radiazione. Ricordo che su Radiazione non vengono letti libri di testo anarchici, perché sarebbe tutto molto scontato. Invece se preferisce la lettura di narrativa, però che scelta un po' mirata, lettura che bene o male possa avere qualche tematica anche affine ai temi trattati anche sul sito di Radiazione, sito di Radiazione, che è radiazione.org. Invece per chi vuole scriverci e mandare una mail, comunicati, scritti, materiale informativo da poter pubblicare sul sito di Radiazione, ricordo la mail, che è radiazione@tistici.org. Abbiamo iniziato la radio con la consueta lettura di Nazero 13 e dopo a seguire il brano Nube Tossica, brano che andrà legato CD insieme al racconto, quando uscirà, quando ci sarà la possibilità di farlo uscire, uscirà e andrà benefit per i detenuti. Questa volta toccherà togliere un pochino di spese di spese per far pubblicare sia il testo che il CD, però comunque tutto il resto andrà benefit, quindi speriamo che si riesca a far uscire il più presto è possibile. La radio trasmette, Radiazione trasmette sul server anarchia.net, server messo a disposizione sia per le dirette radio che per il sito dal compagno di Anarchist Library, che salutiamo per l'aiuto continuo che dà anche per altre cose legate sempre all'informatica, perché qui chi parla è una capra in tutto, in totale ignorante in informatica. Allora, aspettando Marcello, che non è ancora arrivato, è in ritardo, ora ci ascoltiamo un brano. Lui è PKT, un compagno napoletano che trasferito in Messico, con il brano Rimba Beat dal Sistema. Poi dopo si torna qui e, aspettando Marcello, si inizia subito con la controinformazione. Sale come al nino, odia già la scuola, odia la professora, le regole la suora. E non ci vuole credere, non ci vuole credere, non ci vuole credere all'asino che vola, non ci vuole credere all'asino che vola, non ci vuole credere all'asino che vola, non ci vuole credere mo. Ma ben a raggio, ma ben a raggio, si sulla pensa a tutti era maggio, che chi stanno fatta, a tutta gente morta, a tutta nostra rotta, mannaggia chi è morto. Ma ben a raggio, ma ben a raggio, si sulla pensa a tutti era maggio, che chi stanno fatta, a tutta gente morta, a tutta nostra rotta, mannaggia chi è morto. Condano, condano, condano, condano, condano, condano, condano, condano, condano, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, pizzi, condano, condano, condano, condano, condano, condano. In cerca di aiuto, guardo dritto a terra e al massimo ci sputo, butto giù la rabbia, la mastico di gusto, la tengo da parte per il momento giusto, perché adagiarsi, posarsi, idoli falsi, fermarsi a guardare attorno e accontentarsi dello status quo di un politico che mai conoscerò, di un sindaco scaltro come l'altro, ennesimo politico bastardo, ennesimo politico bastardo, rimambiti dalla crisi del 2012, cavalchiamo tempi quanto meno logici, come la risolviamo la crisi affidandoci a putri sorrisi, tipo saranno famosi. Grandi fratelli, sorelle, lontane oasi, lontane oasi. E questo era, come detto prima, PKT con il brano Rimba Beat dal Sistema. Ora, sempre in attesa di Marcello, iniziamo subito con la controformazione. Noi si inizia la diretta, poi quando arriverà Marcello si continuerà con la lettura del libro di Sergio Piasecki, Nessuno ci salva. Controinformazione, prima notizia che arriva dal Cile, dove sono state formalizzate le accuse per i 3 arrestati il 18 settembre. Allora, c'è l'articolo pubblicato sul sito inizia con una nota di redazione in cui si dice che si continua a dare l'aggiornamento sull'arresto delle 3 individualità arrestate in Cile in attesa di capire se sono compagni anarchici o meno. Ora, dopo qualche giorno, sembra che questi siano dei compagni anarchici, almeno leggendo altri siti di quelle parti. Allora, leggiamo gli aggiornamenti. Oggi 23 settembre sono state formalizzate le accuse nei confronti di Nathalie, Juan e Guillermo, accusati per gli ordigni esplosivi nella primera commissaria dei Carabineros a Santiago l'11 agosto e nella stazione della metropolitana di Los Dominicos 13 luglio e nella stazione della metropolitana Escuela Militar 8 settembre. Il procuratore Raúl Guzmán ha richiesto la custodia cautelare per Natalia Casanova e Juan Flores, accolta dal giudice René Cerda, mentre Guillermo Durán è stato messo agli arresti domiciliari notturni. Tutto questo per una durata di 10 mesi, il periodo dell'inchiesta. Infine, le 3 individualità affrontano le seguenti accuse. Juan Flores è accusato per 4 attacchi di natura terroristica. Natalie Casanova è accusata per la partecipazione all'esplosione nella metropolitana di Los Dominicos e Guillermo Durán è accusato per possesso e fabbricazione di esplosivi per le azioni terroristiche. Le prove presentate dal procuratore sono Guzman, procuratore Guzman, vediamo, ho la lingua attaccata, sono la timbratura sulle schede BIP, schede di pagamento dei mezzi pubblici, e Natalie Flores Juan Casanova, con cui si potrebbe ricostruire il tragitto nei luoghi dove sono avvenuti questi attacchi per cui sono accusati. Inoltre, un altro test sarebbero i video delle telecamere nella metropolitana di Santiago, che confermerebbe l'identità degli imputati. Infine, per quanto riguarda la perquisizione nella casa nel comune di La Pintana, il procuratore ha confermato che sono stati trovati 680 grammi di polvere nera. Dato questo scenario, si può solo solidarizzare con Juan Flores, Natalie Casanova e Guillermo Durán. Battiamo le mura delle prigioni. E questo era l'aggiornamento per quanto riguarda i 3 arresti avvenuti in Cile. Abbiamo già detto nell'ultima diretta cosa si pensa degli attacchi in Cile, abbiamo anche letto qualche comunicato che arrivava dal Cile stesso, però ora non vogliamo affondare ancora di più la mano su questo tema. Ora ci sono 3 persone che sono in carcere e sarebbe da idioti fare dei processi a priori. Quindi vediamo, per ora i tre compagni arrestati hanno tutti e tre smentito ogni tipo di accusa. Poi aspettiamo ulteriori aggiornamenti. Ora per ci ascoltiamo un brano che ancora non avevo scelto. Allora, il brano è Trojans degli Algorithm, e poi dopo si torna qui e forse è arrivato Marcello e si inizia con la lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. E allora, intanto avevamo lasciato pure tutto quel sottofondo quando è arrivata la controinformazione. È arrivato Marcello, quindi ci prendiamo un attimo, un pochino di pausa. Questi erano gli Algorithm con il brano Trojans. Non vorrei andare continuare con la controinformazione perché oggi ce n'è poca, e quindi poi andarla a spezzare sarebbe è più morbido andarla a spezzettare con il racconto, facendo come si fa di solito qui il lunedì, un paragrafo di lettura e una notizia di controinformazione, altrimenti ci bruciamo la controinformazione e poi dopo solo lettura. E quindi chi ascolta dopo ricominceremo con Piasecki, Sergius, Nessuno ci salva. Eravamo arrivati seguendo le nostre attività, ma torneremo fra brevissimo. E allora ci prendiamo questa ulteriore pausa con un brano dei Wire, Practice Make Perfect, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con il racconto di Sergio Piasecki, Nessuno ci salva. Never for money. Allora, eccoci, come ogni lunedì ritorniamo con la lettura, anche se stavolta un tantino in ritardo. Ogni tanto capita, che dobbiamo fare? Non è un lavoro. Non è un lavoro, per fortuna, anzi, meno male, noi lo facciamo proprio perché non è un lavoro. Allora, eravamo arrivati e invitiamo chi ci ascolta e chi ci ascolterà nelle registrazioni podcast a fare il riassunto delle puntate precedenti da sé, ascoltando e scaricando le puntate appunto. Vabbè, viene pure trasmesso proprio gli ultimi 20 minuti, vengono trasmessi ogni volta prima della diretta, quindi. Eravamo alla storia del il maestro del Grimaldello che si presenta come maestro della lesina. La sera trovò il cortile immerso nel silenzio. Tremando dal freddo, il cucciolo, ferito, sgusciò fuori dal suo nascondiglio e si adagiò nella cassetta e incominciò a sentire i crampi della fame. La zampa rotta gli dava degli spasimi acuti e il corpo era tutto indolenzito. In alto, velate da una leggera nebbiolina, ammiccavano le stelle. Il cane allora si mise a ululare come se volesse accusare gli uomini in cospetto del cielo e ululò, a lungo ululò, lugubremente. D'improvviso, nell'incerta luce del crepuscolo, una sagoma d'uomo si accostò al pozzo. Era Baran. Da qualche tempo aveva notato che in quel cortile esisteva un forno per affumicare i salumi e ogni tanto dava una capatina per vedere se vi si trovassero delle salsicce o dei prosciutti. E anche quella volta era entrato, quindi, con questo scopo, ma un rumore l'aveva distolto dal suo intento ed egli si era ritirato nella parte più scura del cortile. Fu lì che giunse al suo orecchio l'ululo lamentoso del cane. Dapprima non riuscì a capire da che parte provenisse, ma poi, avvicinandosi al pozzo, lo perlustrò con una lampadina tascabile e distinse chiaramente nel fondo una cassetta con sopra la sagoma nera di un cane che, investito dal fascio di luce, fece l'atto di guizzar via spaventato, come se volesse fuggire. E Baran lanciò un'imprecazione. «Schifosi marmocchi, non potevate inventare qualcosa di meglio?» Si allontanò dal pozzo, ma poi tornò sui suoi passi. Creperà di fame quella povera bestia. Allora tolse dalla capace tasca della giubba una pagnotta e, illuminando il pozzo, la gettò al cane, cercando di farla cadere sulla cassetta. Gli abitanti della portineria di Schlamgoi furono non poco sorpresi quando una sera videro entrare quell'uomo sconosciuto. «Buonasera», egli salutò dalla soglia. Tutti lo guardarono in silenzio. La sarta interruppe il suo lavoro di cucito. Baran, su una panca, gettò il suo berretto a visiera e, avvicinatosi al tavolo, vi depose un involto. «Guardate un po' questa stoffa», disse rivolgendosi alla sarta. Ella aprì il pacco mentre Baran si sedeva su uno sgabello accanto al tavolo e tirava fuori di tasca un massiccio portasigarette d'argento con monogramma d'oro. Prese una sigaretta e ne lanciò l'altra attraverso la stanza a Vlad Klepe. «Toh, fuma pure tu!» Vladek non fumava mai, ma chissà perché non ebbe il coraggio di opporre allo straniero un rifiuto e allora accese la sigaretta e si mise ad aspirare goffamente il fumo. Un accesso di tosse lo prese quasi subito e allora Baran gli ordinò: «Ma va, gettala via!» Ed egli ubbidì, lasciando cadere a terra la sigaretta appena cominciata. Intanto Lydia Bala, la sarta, una donna magra e pallida sulla quarantina, esaminava la stoffa. Era una pezza di seta naturale color crema. La donna accarezzava con soddisfazione il bellissimo tessuto e allora Baran le chiese: «Ce n'è abbastanza per fare due completi di biancheria?» «Dico due». Il volto della donna espresse lo stupore. «Oh, ma non è un peccato», dittò. «Vi ho chiesto se basta, rispondete». «Oh, certo che basta, e ne rimarrà perfino un bel pezzo. E allora prendete le misure». Baran si tolse la giacca e la sarta gli si avvicinò col metro. «Il lavoro deve essere eseguito a puntino, capito?» disse Baran. «E mi raccomando i colletti, del resto verrò ancora a far la prova». Poco dopo lasciò la casa di lepre. «Ma chi potrebbe essere? Certamente un riccone», disse Lydia. Un riccone, ripeté cambiando tono Vladek, che aveva l'abitudine di ripetere parecchie volte le parole dette agli altri. «Non mi ha chiesto neppure il prezzo della fattura, ma sono convinta che pagherà bene». «Bene», confermò Vladek. L'unica a tacere era Romka, chiamata Kurta, che era rimasta in un angolo silenziosa osservando gli astanti con i suoi bellissimi occhi. era stata bistrattata da madre natura Romka. Aveva le gambe corte e storte, conseguenza di una malattia avuta da piccola. Anche il volto era piuttosto bruttino, ma in compenso aveva un paio d'occhi meravigliosi, orlati da lunghissime ciglia. Curta, lavorata da Sklamgoi per un misero compenso, e a casa era maltrattata dalla sorella, una vecchia zitella isterica. Vladek Lepre viveva anche lui sotto la tirannia della sorella maggiore, anche lui con la natura era stata piuttosto matrigna che madre. Poi quel corpo inferto gli dava con un peso di bilancia aveva finito per deformare del tutto il viso. Un'altra sua caratteristica, oltre la bruttezza fisica, era una eccezionale sensibilità. Bastava che qualcuno dicesse freddo perché Vladek si fregasse subito le mani per riscaldarle. Era capace di ripetere l'ultima parola di una frase pronunziata da qualcuno per diverse volte. Stasci, il cocchiere, diceva di Vladek che aveva nella testa una rotella fuori posto. Vladek però aveva un cuore d'oro, una vera tenerezza per gli animali. Con gli uomini era sempre a corto di argomenti, ma sapeva parlare a lungo coi cavalli, che trattava come propri simili. Raccontava loro i suoi dispiaceri, i suoi fastidi, e si sentiva a suo agio in loro compagnia. Dopo la prima visita ai Bala, Oleg Baran comparve di nuovo a breve distanza di tempo. Quando la biancheria fu pronta, egli ricompensò Lidia così generosamente che questa rimase a bocca aperta e si rivolse a lui chiamandolo Vossignoria. «Ma che signoria d'Egitto!» protestò Baran. «Sono un calzolaio!» «Niente di più, sono arrivato dall'America con l'intenzione di aprire qui un laboratorio». E quindi da quel momento Lidia, parlando di Baran, lo chiamava l'americano. Pochi giorni dopo aver ritirato la sua biancheria, Baran fece una nuova apparizione dalla portineria di Sklamgoi. Questa volta fu per ordinare alla sarta di cucirgli una camicia sportiva con tasche come quelle dei militari. Nutriva sempre la speranza di incontrare lì un giorno o l'altro Paulinka. Ma la ragazza o non veniva più affatto o capitava proprio quando egli non era presente. Quando Baran tornò a ritirare la camicia, dovette andarsene senza aver avuto fortuna neppure quella volta. Tuttavia, senza che egli lo sapesse, anche Pavka si interessava al famoso americano, di cui aveva sentito tanto discorrere da Lidia e la quale sembrava non volesse più chiudere la bocca quando parlava di quell'argomento. Capisci? Porta della biancheria di seta, e che seta, figlia mia, dovresti vedere gli anelli che ha sulle dita. Se poi ti offre una sigaretta, tira fuori uno di quei portasigarette che può avere soltanto un milionario o uno di quegli aristocratici che si nascondono per non farsi prendere dai bolscevichi. Paulinka moriva dalla curiosità, ma pareva che la sorte maligna facesse di tutto perché quei due non si incontrassero mai. We'll be right back. E questi erano Scarlet Remains con il brano Fear Not, dopo la prima lettura per oggi di Nessuno ci salva, stavo dicendo della madre, non stava giocando, di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Ora si ritorna alla controinformazione con un'azione avvenuta in Costa Rica, la prima da quanto mi ricordo io di azioni che avvengono in quella zona, a Cartago, un attacco rivendicato da Alfai FRI. Leggiamo direttamente il testo rivendicativo. Varie cellule hanno iniziato una serie di piccoli atti di sabotaggio in Costa Rica. Per mesi non ci aspettavamo che la nostra azione potesse avere un tale forte impatto. È la prima azione di questo tipo in questo sporco paese da molti, molti anni. Per questo motivo abbiamo avuto la necessità di rivendicare la responsabilità di questa azione, pensando che molta più gente ne avrebbe guadagnato forza scrollandosi di dosso la paura che ci tormenta ogni giorno, questa paura che non ci fa andare oltre. Il controllo tecnologico è in costante aumento, è per questo che abbiamo deciso di prendere il controllo della nostra vita per qualche istante e realizzare questa azione, che non è a fine a se stessa, ma il mezzo attraverso cui ci vendichiamo della nostra schiavitù. Giovedì 19 giugno 2014, in particolare, abbiamo attaccato un negozio di macelleria a Cartago con un ordigno incendiario. Il fuoco ha superato le nostre aspettative e, secondo i rapporti della stampa, ci sono stati danni per più di $40,000. L'industria della carne è un chiaro riflesso di questa società. Addomesticamento, minimo rispetto verso la natura e il denaro come in sacra divinità dietro ad ogni mossa. Questa non è solo una rivendicazione di responsabilità, è una chiamata di guerra al resto delle cellule, al resto dei fratelli e delle sorelle di fuoco. Loro sanno a chi ci riferiamo, a chi questo messaggio si rivolge. È arrivato il tempo di incendiare questo paese, questo mondo artificiale. È l'inizio del fuoco nero che consumerà le loro imprese e l'industria della sporca società tecno-industriale. Ora è il momento di articolare una critica fredda e diretta, lontano da fantasie, andare avanti e presentare i propri colpi. È ovvio che non abbiamo destabilizzato il sistema con questa azione, ma una macelleria bruciata è una macelleria in meno. Con i compagni in carcere ho caduto in combattimento nella nostra memoria, fucili e attacchi. Senza ulteriori indugi, questo è un breve messaggio dai selvaggi della terra, Elf, Alf, Fai, FRI. E questa era la notizia di questa prima azione, da prima azione, no, da quanto mi ricordo io. A meno che non si va indietro di 30-40 anni. La prima azione è avvenuta in Costa Rica o Costa Cala, Costa Rica, e quindi vabbè, a parte avevo messo tra gli argomenti che non sarebbero stati mai trattati l'animalismo, ma questa l'ho voluta mettere proprio perché è una prima azione che arriva da un paese che, in cui fino ad ora regnava un po' la pace sociale, e quindi era giusto divulgarla come notizia. E poi chissà, loro dicono che continueranno e vedremo. Noi continueremo ad aggiornarli nelle loro azioni. Ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono gli Uberbyte con il brano Total War, e poi dopo si torna qui con Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Yeah! Passati alcuni giorni da quando l'ultimo lavoro che Lidia aveva fatto per Baran gli era stato consegnato, ed ecco che una sera egli capitò di nuovo chiedendo di Vladek. Curta trotterellò fuori nel cortile in cerca del fratello quando Vladek, sorpreso per la visita improvvisa, giunse alla portineria e Baran gli chiese: «Hai una corda lunga?» corda lunga, ripeté Vladek. «Portami tutte quelle che puoi trovare, non importa se sono anche redini, funi. Andremo in un posto, c'è una faccenda, ti pagherò bene.» Lepre, da buona abitudine, non fece altre domande. Nonostante il suo fisico mostruoso e il suo modo balordo di parlare, egli non mancava di furberia e la capacità di sbrigare alla svelta le cose. In un batter d'occhio comprese che bisognava far presto. Si allontanò di corsa e tornò pochi minuti dopo, portando un voluminoso rotolo di corde. Baran scelse le più solide e, senza chiedere a Vladek se potesse disporre del suo tempo, ordinò: «Su, andiamo!» e si avviarono verso il cinto. La sera calava rapidamente. Baran e Vladek si avvicinarono a un pozzo che si trovava nell'angolo di una grande cortina. Baran illuminò il fondo con la sua lampadina. «Eccolo lì, è ancora vivo», disse Baran. E infatti Zuk era tuttora in vita, sebbene fossero passate 2 settimane dal giorno in cui era stato calato nel pozzo. Era riuscito a campare grazie al cibo che Baran tutte le sere gli aveva gettato nella sua prigione. Di giorno si nascondeva sotto la cassetta temendo di vedersi scaraventare addosso qualche altra pioggia di pietre. Ed era mancato poco che così accadesse, perché i bambini avevano continuato ancora per parecchi giorni il gioco della miniera, rovesciando una gran quantità di sassi nel pozzo. Baran si accorgeva infatti che il loro numero aumentava ogni giorno, rialzando il livello del fondo. Non sapeva come facesse il cane a evitare la morte, ma poté constatare che viveva e perciò improvvisamente prese la decisione di salvarlo. Era un'impresa difficile a compiersi da solo e d'altra parte non voleva chiedere aiuto a qualcuno dei dritti, perché certo si sarebbero meravigliati che un professionista di classe come lui venissero in mente simili stupidaggini. Allora si ricordò di Vladek Lepre e gli si affacciò alla mente l'eccezionale forza fisica e la grande bontà di quell'uomo. Aveva visto come trattava i cavalli e come, senza fatica alcuna, spostava con una sola mano la parte posteriore del carretto per entrare nel cortile o per tirarlo fuori dalla stalla. Baran svolse la fune che fece passare sopra la trave trasversale perché potesse scorrere. Poi gettò una corda più sottile nel pozzo, attaccando l'altra estremità a un anello di ferro fissato all'imboccatura del pozzo. Questa corda doveva servire a tirar su il cane mentre egli stesso si sarebbe calato con la fune più grossa. Avrebbe potuto fare tutto questo da sé, ma preferiva essere assistito da qualcuno nel caso che gli fosse successo qualche cosa. «Io scendo giù, capisci? C'è un cane là dentro. Delle canaglie ve l'hanno buttato. Se dovessi capitarmi qualcosa, mi tirerai su, capito? Sei abbastanza in gamba, no, Vladek?» Baran sentì che Lepre sbuffò come per ridere, sputandosi poi abbondantemente sulle palme delle mani. Si tolse le scarpe, si infilò sotto le ascelle il nodo scorsoio che aveva fatto all'estremità della fune e iniziò lentamente la discesa. Man mano lasciava andare l'altra estremità e così scivolava più gradatamente. Ogni tanto doveva appoggiarsi coi piedi su qualche pietra che sporgeva dalla parete del pozzo. Intanto, dall'alto, Vladek guardava, o meglio, ascoltava, trattenendo il respiro. Con la destra toccava la fune per assicurarsi che la discesa procedesse regolarmente. Dopo qualche secondo, preoccupato dal silenzio e dal fatto che il movimento della corda si era arrestato, si sporse dal parapetto e stava per gridare: «Ehi, come va?» quando vide nel fondo un raggio di luce. Baran era giunto a toccare con i piedi le pietre ammucchiate nel fondo, insieme a mattoni, pezzi di legno e rottami di ogni genere. La cassetta era quasi scomparsa sotto quel diluvio di proiettili. Egli constatò con stupore che anche il cane era scomparso. «Che l'abbiano già portato via», pensò. Ma a un tratto percepì un lieve rumore. Zuk, appiattito sotto la cassetta e terrorizzato per quello che stava succedendo, tentava di strisciare fuori dal suo nascondiglio. Era un tentativo disperato, poiché i sassi ne avevano completamente otturata l'apertura. Baran comprese che sarebbe stato tutt'altro che facile afferrare la bestia. Dovette togliere molte pietre prima di poter arrivare fino alla cassetta sotto la quale si trovava il cane. Ma anche quando ebbe compiuto questa operazione, non gli fu possibile smuovere la cassetta, tanto che questa era conficcata nel fondo melmoso. Allora introdusse la mano nell'apertura, toccò il pelo di Zuk, ma subito si sentì mordere rabbiosamente la mano e la ritirò di scatto. «Morde questa piccola canaglia!» Ci volle molto tempo e fatica prima di riuscire a liberare il cane, che si difendeva disperatamente con le unghie e con i denti, spingendosi più che poteva in fondo alla cassetta e dentro la melma. Finalmente Baran riuscì a tirarlo fuori e lo ficcò dentro un sacco che attaccò all'estremità della corda e quindi gridò: «Su, tira!» Il sacco salì rapidamente e allora anche Baran cominciò a issarsi a forza di braccia. si sarebbe certo ammazzato seriamente ferito se Lepre, che controllava continuamente con la mano il movimento della corda, non si fosse accorto che la trave su cui essa scorreva stava per cedere. «Aspetta!» gli gridò. Baran comprese che stava per succedere qualcosa e si affrettò a trovare un appiglio su cui potesse appoggiare i piedi. Dei detriti caddero su di lui. Era meglio piantarsi con tutto il corpo addosso alla parete e attendere. Lepre riuscì ad appoggiare solidamente la trave e, afferrando con ambo le mani la corda, la tirò adagio finché non incontrò resistenza. «Lascia che ti tiri su io!» gridò. «Va bene!» Poco dopo, Baran sedeva sul parapetto del pozzo infangato fin sopra i capelli, con le mani e i piedi che gli sanguinavano. Si assettò un po' il vestito, si asciugò le mani. Raccolsero le corde, con il sacco dentro il cane, e insieme si avviarono verso la periferia. Ma Baran non volle entrare dai Bala, consegnò a Vladek il sacco, gli mise in mano qualche moneta e disse: «Prenditi cura di lui, portalo dal veterinario perché lo visiti, verrò domani a vederlo». «Inteso», rispose Lepre, stringendo la larga mano di Baran dura come il legno. Ritornando verso casa, Vladek, Lepre continuava a sorridere. Era davvero strana l'impresa che avevano compiuta e più strano ancora quel signore che l'aveva progettata. Sentì una sconfinata simpatia per lui. E loro erano The God Cycle con il brano Drunk Cuts, e ora si ripassa alla controinformazione con un testo che arriva dalla Svizzera contro ogni forma di dominio. Leggiamo il testo scritto dai compagni svizzeri: da diversi anni il progresso tecnologico cresce fortemente, apportando nuove nocività quali il nucleare, le nanotecnologie e gli organismi geneticamente modificati. Questi minacciano nell'immediato la vita sulla Terra in diversi modi: attraverso lo sfruttamento delle materie prime, lo stoccaggio di enorme materiale radioattivo, la contaminazione irreversibile con nanotecnologie e la manipolazione genetica. Tutte le tecnologie condividono il potenziale di espansione e controllo sul vivente fino a raggiungere una dominazione totale della civiltà e delle sue innumerevoli strutture di potere che alienano quotidianamente le nostre relazioni. La rivoluzione industriale porta ad un innalzamento della specializzazione e della centralizzazione. La tecnologia genetica rappresenta un nuovo salto qualitativo nello sviluppo del controllo sull'agricoltura. I brevetti sulle sementi di qualche grande multinazionale spingono l'agricoltura verso una dipendenza assoluta. Con la distruzione della biodiversità, ogni possibilità di un approvvigionamento autonomo è reso impossibile, impedendo fondamentalmente una prospettiva verso delle comunità libere e decentralizzate. Non sono solo le multinazionali e gli stati che ne portano la responsabilità, ma pure tutti coloro che credono alle loro menzogne e sostengono il loro sviluppo. Un ruolo centrale in questa tendenza distruttrice è da attribuire agli scienziati avvolti nei loro camici bianchi della neutralità. Nascosti dietro alla nozione di ricerca fondamentale, lavorano alla legittimazione della tecnologia genetica. Entrare nello specifico di questa ricerca non ci interessa per niente, considerato quanto le intenzioni dei ricercatori ci sembrano chiare. Con il fine di assicurarsi l'approvazione dell'opinione pubblica, si nascondono interessi economici, nonché l'espansione del controllo sul vivente sotto la copertura della sacrosanta scienza. La resistenza contro queste nocività, non potendo essere spezzata attraverso queste menzogne, ha richiesto l'intervento della repressione. Il nuovo sito protetto di Reckenholz nel canton Zurigo, dove gli attuali e futuri test a campo aperto di OGM si svolgono, è sorvegliato 24 ore su 24 da un'agenzia di sicurezza e da cani da guardia, videosorveglianza permanente e da due inferriate enormi dotate di sensori di movimento. Ha in più l'aspetto di una fortezza. Contrastiamo l'avanzata della dominazione totale, contrastiamo i responsabili che stanno intracciando la nostra strada verso la liberazione da tutte le forme di dominio, alcuni contadini anarchici. Poi sotto ci sono delle note: l'Istituto di Biologia Vegetale, Università Zurigo, che è il promotore e direttore del test a campo aperto, è il professore Bit Keller. I costi della ricerca sono presi a carico dell'università. Agroscope non è il sito protetto che ospita la sperimentazione, è responsabile per gli aspetti tecnici ed è diretto dal dottor Michael Winsler. Le sperimentazioni hanno luogo nei terreni presso Reckenholz e Affurten a Zurigo. Poi ce n'è una in francese: Bouygues Energy e Service. L'azienda Bouygues Energy e Service sorveglia 24 ore su 24 il centro ricerca con tanto di cani da guardia. Il gruppo Bouygues offre servizi che vanno dalle telecomunicazioni alla sicurezza, presente mondialmente in Svizzera, a oltre 30 filiali. E poi c'è l'Ufficio Federale dell'Ambiente, UFAM. L'UFAM è responsabile dell'autorizzazione del progetto e della semina di grano modificato. E questo era il testo scritto dai compagni svizzeri, che ci apre anche un po' la visuale su nuove sigle, nuove aziende che fanno parte di industria che contaminano anche l'agricoltura, che in maniera erronea viene considerata un campo ancora libero e ancora praticabile, quando invece l'industrialismo diffuso colonizza ampiamente e sfrutta l'agricoltura come terreno di dominazione. Beh, questa era la notizia che arriva dalla Svizzera. Ora ci ascoltiamo un brano. Loro sono Psycho Beach con il brano Machinery. E poi dopo si ritorna qui con Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. La storia del cane fece grande sensazione in casa dei Bala. Nessuno riusciva a comprendere per quale motivo Baran avesse agito in quel modo. L'indomani Vladek portò Zucco dal veterinario, che gli medicò la zampa fratturata e gli disinfettò le ferite, che erano tutte sporche e infiammate. Poi Vladek riportò a casa il cane e lo collocò provvisoriamente in un vano sotto la stufa, in cucina. Zuck andò subito a rincantucciarsi nel fondo, e quando gli fu messa davanti una scodella di zuppa rifiutò, finché si sentì addosso gli sguardi indiscreti di tutti quegli estranei. Solo più tardi uscì cautamente e divorò la zuppa fino all'ultima briciola, ritornando subito dopo a nascondersi appena ebbe finito. Pavka, che dal giorno in cui aveva sentito parlare dell'americano era venuta spesso a trovare la sarta, sentì crescere ancora di più l'interesse per lui, ascoltando il racconto esagerato di Lidia sull'avventura del giorno prima, a cui Vladek aveva preso viva parte. Il fratello, sempre poco loquace, gliel'aveva raccontata in poche parole, ma lei era già riuscita a farne un romanzo. Verso sera Pavka venne dalla zia con un lavoro da ricamo. Era decisa a non lasciarsi sfuggire l'occasione di vedere l'americano. E poco dopo capitò Baran. S'accorse subito della presenza di Pavka e non era difficile capire che ne era molto felice. Gli sembrava che la ragazza, con la sua sola presenza, avesse cambiato l'aspetto di quella stanza, della quale, del resto, vedeva ben poco. Tanto il suo interesse era assorbito dal volto di lei. Pavka, vedendola entrare, si mordicchiò le labbra, bagnandole poi con la saliva perché apparissero più colorite. Intanto osservava Oleg con grande interesse, badando tuttavia non dare l'impressione di essere sfacciata. Egli salutò Lidia e si avvicinò a Pavka. «Vedo per la prima volta quella bella signorina», disse allegramente. Pavka arrossì e Lidia si affrettò a dire: «Voi mia nipote, per essere bella è bella davvero». «Lo dicono tutti, ma è anche birichina, le piace far girare la testa agli uomini». «Beh, non le ci vorrà molto davvero», commentò Baran. Pavka guardò con finta aria di rimprovero la zia, poi chinò la testa sul ricamo, sbirciando ogni tanto in direzione di Baran. E gli parve un altro quel giorno, fu loquace e allegro, come non era mai stato. La serietà che avevano sempre vista sul suo volto era sparita, gli occhi gli brillavano mentre parlava in tono gioviale. Pavka, sicura dei suoi vezzi, lo guardava di sottecchi, intento apparentemente al suo lavoro. Baran tirò allora fuori il famoso porta sigarette e, dopo aver tolto una sigaretta, lo lasciò sul tavolo perché facesse colpo sulla ragazza. Una peonia, pensava Baran guardandola con crescente ammirazione. Poi si sedette accanto a lei per vedere il ricamo che aveva tra le mani e dopo un po' si rivolse a Lidia. «Dov'è Vladek?» «Ah, verrà subito, deve essere nella scuderia. Spero che non vi annoiate qui. Accanto ad una damigella come questa non mi annoierei neppure se dovessi restare qui per tutta la vita». «Oh, ma siete proprio un adulatore. No, io dico la pura verità, non credevo ai miei occhi quando ho visto una simile meraviglia». Ispirato dal sentimento che gli riscaldava il cuore, Baran diventava sempre più gioviale e spiritoso e arrivò a strappare alla ragazza una dopo l'altra tutte le sue risate. «Ah», pensò Lidia, «l'americano ha abboccato, quanto pare». In quel momento entrò la curta e subito dopo Vladek. Baran li salutò con effusione e poi chiese al guardiano: «Come sta il mio protetto?» Vladek sorrise, mostrandogli una fila di denti, e rispose un po' a bambera come al solito: come no, chiamò il cane. Nero! Si chiama Caro», identificò Baran, improvvisando chissà perché questo nome per l'animale che aveva salvato. Lepre tirò fuori abilmente il cane da sotto la stufa, la bestia tentò di morderlo, ma non vi riuscì perché Vladek lo teneva ben stretto per la nuca. Baran prese il cane sulle ginocchia e, tenendolo per il collo, lo accarezzò sulla testa. Il bastardo tremava, indietreggiava, ringhiando davanti alla mano che lo accarezzava. Vedi, è un cucciolo di razza, non una bestia qualunque», disse Baran a Pavka. «Ha avuto un padre e una madre, sa, bisogna dunque rispettarlo. Lo accarezzi per favore, signorina». Pavka, riluttante, accostò la mano alla testa del cane, ma la ritirò subito perché Caro emise un ringhio minaccioso. «La lascerò a te», disse Baran a Vladek. «Naturalmente ti rimborserò le spese del suo mantenimento. Dagli bene da mangiare, mi raccomando. Io per ora abito in un albergo e non ho la possibilità di badargli. Ma che cosa ne vuol fare, chiese Pav Gabaran? Che cosa ne voglio farne? Educarlo, prima di tutto. Mi pulirà le scarpe, mi farà il tè, imparerà a fumare i sigari, a bere vodka, e così ci faremo buona compagnia. E allora Pavka si mise a raccontare di un cane che aveva avuto suo padre. Parlava in fretta, come se temesse che qualcuno la interrompesse, non lasciandole finire la sua narrazione. Oleg la guardava negli occhi senza sentire quello che diceva. Dovete fare uno sforzo per riuscire a capire qualcosa. Senta, potrebbe ricamarmi una camicia alla russa? Chiede Baran, esaminando il lavoro che Pavka spiegazzava con le mani mentre parlava. Ancora un pezzo di quella stoffa di seta, la signora Liden ne ricaverà sicuramente una camicia e lei ci farà sopra un bel ricamo a punto e croce. In compenso io le farò un bel paio di scarpette come non ne ha mai avuto da nessuna parte, contessa. Tutti le ammireranno, vedrà. Mi ci metterò di impegno come se me le avessi ordinate la figlia di Rothschild, d'accordo? Gli occhi di Pavka sfavillarono. No, certo, molto volentieri, ma che disegno vorrebbe? Lascio a lei la scelta. Anch'io farò le scarpette secondo il mio gusto. Permetta soltanto che prenda la misura del suo piedino. Prese un pezzo di carta e vi disegnò sopra il piede di Pavka dopo aver tolto la scarpa. La ragazza fece un po' la schizzinosa come se si vergognasse, ma Baran adempì a quella funzione con una serietà veramente professionale. Poco dopo la ragazza si alzò. Accingendoci a tornare a casa, Oleg le propose di accompagnarla ed ella consentì. Quando furono usciti, Lidia disse: pare che Pavka gli sia entrata dritta nel cuore. Accidenti se gli è entrata. Oleg accompagnò Pavka fino in via Slepianska. Combinarono di incontrarsi ancora da Lidia la domenica successiva. Poi Baran tornò a casa sua per vie traverse. Era esultante. Dentro di sé sentiva qualcosa che assomigliava alla commozione e alla gioia al tempo stesso. Continuava a sorridere e anche la notte gli sorrideva con le sue stelle. Bang, bang. questi erano The Sister of Mercy con il brano Detonation Boulevard. Ora si ripassa alla controinformazione con un'azione che arriva dall'Australia, da Black Heat per la precisione, dove è stata attaccata la NPUS, che ora andremo a spiegare attraverso il testo rivendicativo. Rivendichiamo la responsabilità per l'attacco al National Park and Wildlife Service nella mattina di giovedì 18 settembre. NPVS è stata presa di mira per la sua collaborazione nella guerra alla fauna selvatica, con una storia estesa e l'abitudine costante di spargere veleno del tipo 1080 fluoroacetate di sodio in luoghi selvaggi con la pubblica scusa di conservazione. Uccidere e distruggere indiscriminatamente quante altre vite e terre dovranno essere distrutte da questi gruppi di folli con visioni ed esperimenti ecocidi? Per esprimere la nostra indignazione, coperti dal buio della notte, siamo entrati nel loro deposito di Darug Gundungurra Country, a Black Heat NSV. Durante la nostra breve visita, due veicoli sono stati sabotati, tagliando i pneumatici, rompendo i parabrezza e versando un po' di additivo nel serbatoio del carburante, giusto per addolcire il progetto. Se scegliete di continuare ad utilizzare questa terra come discarica, ci incontreremo di nuovo. La nostra rabbia brucerà sempre di più e sempre più forte, in difesa dei predatori, in difesa della natura selvaggia, Elf. E questa era la ultima notizia per quanto riguarda oggi la controinformazione di radiazione. Poi dopo termineremo, almeno da parte mia, con l'ultima parte di Nazero 13. Invece subito dopo il brano che andremo ad ascoltare ora, ci sarà ancora un nuovo paragrafo di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. Climate did his best. Moved along about another 10 meters and fired one shot at the police car. It's just about to run. Come sorse la calzoleria varsaviana. Nel sobborgo di Zlora Gorska, in via Zakarievska, al numero 157, si trovarono tre casette a un solo piano. Appartenevano ad una certa signora che abitava al numero 159, in una casa più bella e più moderna. Ma in una di queste tre casette, quella che guardava verso la strada, abitava la signora Nazevich, vedova di un funzionario della Camera del Tesoro. Aveva due figli, un maschio di 19 anni di nome Jan e una figlia sedicenne che si chiamava Elena. Finché era vissuto il marito, la famiglia era stata bene, ma dopo la sua morte, due anni dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, le condizioni erano andate sempre più peggiorando, per poi precipitare addirittura dopo la rivoluzione del 17, quando sparì tutto il denaro che era stato investito in azioni redditizie. Allora la miseria si insediò stabilmente nella casa della signora Nazevich. Essa vendette le poche cose non strettamente indispensabili che ancora le rimanevano e dopo venne la fame. Un fatto aggravava la situazione già così precaria. La signora Nazevich non aveva mai goduto fino ai tempi dell'agiatezza di buona salute. Aveva una malattia di cuore. Ora, questo male si era molto aggravato e la povera donna non poteva nemmeno più accudire le faccende domestiche che a poco erano passate nelle mani di Elena. Jan cercava affannosamente lavoro e lo aveva anche trovato due o tre volte, ma il suo stipendio, quei prezzi che salivano alle stelle, restava ed era troppo misero. La vedova Nazevich si crucciava molto per questo stato di cose e così la sua salute ne risentiva, peggiorando sempre di più. Jan guardava con tristezza la madre invecchiata così precocemente, i suoi occhi sempre arrossati dalle lacrime. Elena, invece, sembrava perfettamente insensibile a tutto ciò, cantava continuamente delle ariette stupide, imparate chissà dove, pareva un'estranea alla famiglia. Tanto poco si preoccupava della penosa situazione in cui si trovava. Prendeva ogni tanto qualche scapaccione dal fratello al quale si ribellava colpendolo coi pugni, oppure, come unica risposta, gli mostrava la lingua e continuava a fare quel che le pareva. C'era un loro zio, fratello della signora Nazevich, che si chiamava Filippo Zardon e si atteggiava protettore della famiglia della sorella. Era un tipo strano, ubriacone e nello stesso tempo imbroglione. Di mestiere faceva il tagliatore di tomaie e persino in quei duri tempi sarebbe facilmente riuscito a guadagnarsi da vivere benino se soltanto lo avesse voluto. Ma il guaio era appunto che non lo voleva. Diceva: «E perché dovrei lavorare? Anche senza di me la gente avrà le scarpe e potrà camminarci dentro quando vorrà». Jan non ricordava di aver mai visto una sola volta lo zio nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Quando lo vedeva arrivare, indovinava subito dal suo aspetto di che umore era. Se aveva il berretto sulla nuca, per quel giorno lo zio Filippo sarebbe stato pieno di brio. Se invece lo portava di sghimbesce, voleva dire che era un po' svanito. E se infine lo portava calcato sugli occhi, era quasi certamente di pessimo umore. Era una specie di barometro psicologico il berretto dello zio Filippo. Però a Iana piaceva ascoltare i racconti dello zio, che aveva un debole per le storie inventate di sana pianta. Proprio il giorno prima aveva insistito con Iana perché andassero tutti a stabilirsi a Orsha. Laggiù c'è un uomo, capisci? Che non è un demonio, ma che col demonio ha certamente a che fare. Se tu fai davanti a lui una firma col tuo proprio sangue, puoi avere tutto quello che desideri a questo mondo. Bisogna andarci a tutti i costi. Allora, il campo e la casa e tutto il resto saranno nostri. Pianteremo un frutteto di almeno 1000 alberi e in mezzo a questi metteremo anche degli alveari. Avremo il miele a barili, allora figlio mio, e montagne di frutta, e io mi produrrò il vino e le marmellate. Aspetta soltanto un po' e poi vedrai. Lo zio portava qualche volta con sé al mercato Jan per farsi aiutare da lui nella vendita delle varie cose. Dapprima Jan si vergognava di fronte alla gente, ma poi, col tempo, quel mestiere gli piacque e lo divertì. Quando poi gli capitò di vendere con un buon guadagno della merce che gli aveva consegnato lo zio e ricevette da lui un compenso per il servizio reso, gli incominciò a prendere un vero interesse per quel lavoro. Comprese che si poteva comprare della roba a buon mercato da certe persone e rivenderla poi ad altre ad un prezzo più alto, guadagnandoci abbastanza per vivere bene. Perciò si mise a frequentare i mercati più importanti, riuscendo a concludere qualche piccolo affare. L'unico ostacolo a un'attività commerciale in grande stile era la mancanza di un capitale. Doveva, quindi, limitarsi ad articoli di poco valore, ricavandone di conseguenza un modesto profitto, ma acquistava esperienza e abilità e poteva anche dare qualche aiuto alla madre e alla sorella. Un giorno, dopo che lo zio e nipote ebbero fatto un buon colpo grazie all'abilità di Jan nel far acquistare al prezzo più alto possibile la merce che vendeva, lo zio Filippo comperò delle provviste e capitò all'ora del pranzo dalla sorella. Era un po' brillo e, come al solito, parlando, vagava nelle nuvole. Quello che ci riserva il futuro, non possiamo saperlo, interruppe la sorella. Dovresti invece consigliarci ciò che potremmo fare ora per procurarci un po' di denaro. Filippo grottò la fronte, socchiuse l'occhio sinistro, storse la bocca e si mise a riflettere. Dopo un po' si batté la mano sulla fronte ed esclamò solennemente: ecco, ho trovato! E cioè? Ecco, voi avete due ingressi qui nel vostro alloggio, uno che dà sulla strada e l'altro sul cortile. Avete tre stanze e una cucina, mentre per voi sono sufficienti due locali. Perché non rinunziate alla stanza d'angolo con l'entrata principale, in modo che qualcuno la possa adibire a negozio o a latteria? Il quartiere è centrale, si può chiedere una cifra molto alta per il subaffitto, così vi pagherete le altre stanze e vi rimarrebbe ancora tre volte tanto per le vostre spese. Beh, non hai tutti i torti, disse la sorella, ci si potrebbe pensare. Beh, poveri come siete, sarà un grande aiuto per voi. Quella sera in casa a Nazevich si tenne un consiglio di famiglia, al quale in realtà presero parte soltanto la madre e il figlio, perché Elena, sventata e leggera com'era, non era presa in considerazione. La questione fu discussa e infine fu deciso di affittare la stanza d'angolo. Thank you. E l'indomani Jan scrisse nella sua più bella calligrafia su un foglio di carta che affissi al portone: affittasi camera indipendente con finestra e porta sulla strada. Ora non rimaneva che attendere. Il primo che si presentò fu un vecchietto alto dall'aspetto distinto. Egli esaminò il locale e trovò da dire su molte cose e sollevò con la punta del bastone i lembi della tappezzeria che pendevano dalle pareti. E a Jan venne subito la mosca al naso. Beh, allora se non vi piace la stanza, cercatevene un'altra. È inutile che strappiate via la tappezzeria. Il signore si mostrò molto seccato di questa osservazione. Si capisce che cercherò, ne troverò senz'altro una e presto, col denaro che sono disposto a pagare, ma voglio che la stanza sia secondo i miei gusti, avete capito? Sono un maggiore a riposo, io, non uno qualunque, ricordatemelo. Potreste essere anche un generale, che a me non me ne frega niente. Non siamo in caserma qui, andatevene, smettetela subito di gridare, altrimenti... Il vecchietto uscì, ma continuò ad agitare il bastone e a inveire ancora in strada. La seconda persona a presentarsi fu una signora vestita piuttosto elegantemente. Si guardò attorno nella stanza e chiese: c'è uso di cucina? No. È mobilio? No. Allora purtroppo. Poi vennero diverse altre persone. Per alcune la stanza era troppo buia, per altre troppo umida, per altre ancora l'affitto era troppo caro. E infine si presentò un signore dagli occhi obliqui e dello sguardo penetrante. «Sono venuto per la stanza», disse alla madre di Jan che gli aprì la porta. «Oh, accomodatevi, è questa!» Egli ispezionò attentamente il locale, non fece alcuna domanda ridicola o sciocca e senza perdere tempo annunciò: «Va bene, la prendo!» La madre di Jan rimase di stucco perché ormai non si aspettava più una conclusione così rapida. Il signore non aveva neppure chiesto il prezzo. Ella lo invitò nell'altra stanza che fungeva già da sala da pranzo e da salotto e, dopo che la stanza d'angolo fosse affittata, avrebbe ospitato anche il letto turco dove dormiva Jan. Trovatosi in questo locale, il nuovo venuto valutò fulminamente la situazione in quella casa, che in quella casa doveva regnare sicuramente la più squallida miseria. Intellettualoidi smidollati, pensò vedendo sul tavolo una pila di libri. Si possono infinocchiare finché si vuole, allora barattolo. Pagò un mese anticipato e annunciò che sarebbe venuto presto a prendere possesso della stanza. Chiese a Jan di farlo registrare al commissariato e lasciò il passaporto. Appena fu uscito, i Nazevich si precipitarono a curiosare il documento. Il passaporto era autentico, ma nella rubrica professione, invece della verità, cioè ladro professionale, stava scritto semplicemente calzolaio. Da un pezzo Elena si rigirava davanti allo specchio canticchiando: ehi, piccola mela, cerbetta, che occhieggi tra verde fraschetta. Quella canzone irritava Jan oltre ogni dire. Era occupato a riordinare la stanza dell'inquilino e quella ragazzaccia non si sognava neppure di aiutarlo. Da un'ora, davanti allo specchio, stava lì a gingillarsi: tutti ti vogliono per loro, piccola mela d'oro. E io per me voglio la tua testaccia, esplose Jan, contessa delle mie ciabatte. Io sto sfacchinando come un dannato e lei è lì che canta. E beh, che cosa dovrei fare? Sentiamo, lavare i vetri per esempio. L'inquilino potrebbe traslocare anche oggi stesso. E allora svogliatamente Elena si mise all'opera. Jan intanto spolverava le pareti, toglieva le ragnatele dagli angoli e fregava il pavimento. Appena fu tutto in ordine, come per magia comparve il Barana. Egli notò con piacere che l'aspetto della stanza era più accogliente. Ah, grazie, disse a Jan, pagherò a parte il servizio che avete prestato. Tirò fuori di tasca il portafoglio. Jan arrossì e rifiutò il denaro con stupore di Barana, che invece era abituato a vedere la gente allungare subito la mano per prendere più che per dare. Puntiglioso il merlo, pensò, e forse la destra. Grazie allora. Rimasto solo, Barana si guardò attorno per qualche tempo, pensando come potesse sistemare il locale per renderlo comodo e accogliente. Benché fosse stato costretto a passare la maggior parte della sua vita nella miseria e nella sporcizia, in galera o nei covi ladreschi, non era mai riuscito ad abituarvisi. La pulizia e l'ordine gli erano indispensabili per sentirsi a proprio agio. Ci teneva molto alla cura della propria persona e cercava sempre di abbellire l'alloggio che lo ospitava, anche se temporaneo. La camera aveva una grande finestra che dava sul cortile e una doppia porta verso la strada. Quella interna aveva i vetri dalla parte superiore, l'altra era di legno massiccio. La stanza era di forma rettangolare e aveva una superficie di circa 30 metri quadrati. La tappezzeria era di carta, piuttosto sudicia, e quella anche strappata. Era questo l'unico particolare che dava un aspetto poco decoroso alla stanza. Del resto, era simpatica e chiara. Oltre alla porta descritta, se ne apriva un'altra nella parete di fronte che comunicava col resto dell'appartamento, e in uno degli angoli c'era un vano abbastanza profondo per poterci collocare la stufa. Baran, in piedi, in mezzo alla stanza, con la fronte aggrottata e le labbra strette, fece un rapido inventario di tutto ciò che occorreva per ammobiliare e arredare la casa, dopodiché uscì, chiuse a chiave la porta esterna e si avviò verso il centro. Forse non si sarebbe preoccupato in quel momento di avere un recapito proprio, soprattutto perché si considerava di passaggio a Minsk e provava un'acuta nostalgia per Vilna, da dove era fuggito pochi mesi prima, ma l'incontro con Pavka e il sempre crescente amore per la ragazza gli avevano fatto prendere quella decisione. Voleva avere una casa sua e non essere considerato un senza tetto e un vagabondo, perché vivesse nel rischio continuo di perdere la libertà e anche la vita. Baran non aveva alcuna avversione per la tranquillità che garantiva l'esistenza borghese e si sarebbe volentieri costruito un nido, a condizione però che Pavka ne fosse stata la padrona. Per qualche giorno continuò a dormire a casa di Caterina, ma lo si vide sempre più spesso arrivare nella nuova casa con un carretto sul quale trasportava la roba più pesante: un letto, un tavolo, delle sedie, oppure vi capitava anche a piedi d'improvviso carico degli oggetti più svariati. Finalmente, dopo un via vai che durò quasi una settimana, la stanza era pronta. A sinistra, entrando, si vedeva un bel letto nichelato con rete metallica e materasso. Accanto c'era un tavolino da notte e uno scendiletto fatto di pelli di lepre. Questo angolo era separato dal resto della stanza da un vasto paravento. Al centro della stanza c'era un grande tavolo e lungo le pareti si allineavano alcune sedie, un armadietto rosso per gli utensili da cucina. Sulla soglia, fino all'angolo della stufa, era stesa sul pavimento una passatoia di canapa a colori vivaci. Dopo qualche giorno Baran si stabilì definitivamente nel nuovo alloggio e mandò subito a chiamare Jan. Il ragazzo entrò dalla porta di comunicazione che l'inquilino di solito chiudeva dall'interno con un gancio. «Saresti capace di dipingere un'insegna per il mio negozio?» chiese Baran mostrando a Jan un grosso pezzo di legno compensato. «Potresti scrivere calzoleria, non so, vedi tu di trovare un nome che suoni bene e attiri l'attenzione della gente.» «Oh, bene, lasci fare a me», disse il ragazzo. Quando alla sera Baran tornò a casa, Jan gli consegnò l'insegna. Gli era costata sì una giornata di lavoro, era accuratamente dipinta e piacque molto a Baran, che come compenso porse a Jan due file di salsicce. Il ragazzo esitava ad accettare, ma Baran tagliò corto. Prendi, te le sei meritate, mica siete dei ricconi voi altri. Dai, non fare storia. L'indomani, l'insegna comparve sopra la porta di Baran. La leggenda calzolina varsaviana era illustrata da una scarpa dipinta di nero. Un disegno fatto non senza talento. We have to be careful. This is an emergency area. We believe that Britain will be the next country to give fascism a chance. Stand. blood of Western democracy. L'insegna suscitò un certo interesse fra gli inquilini del gruppo di case riunite sotto il numero 157. Particolarmente interessati all'avvenimento si mostrarono tre sorelle che abitavano in quello stabile da molto tempo, tre vecchie zitelle, le signorine Pogliarski. Affittavano un piccolo alloggio e la loro occupazione principale erano i pettegolezzi, sebbene esercitassero per necessità anche il mestiere di lavandaie, andando da una casa a un'altra a prendere e a consegnare la biancheria. Nei giorni di bucato ingombravano tutto il cortile coi panni da asciugare, rendendo in tal modo estremamente difficile il passaggio agli inquilini. Con occhio severo, una delle tre sorelle sorvegliava il bucato. Oh, ma che fortuna ha avuto quella Nazevich! E anche quella cicogna delle lunghe gambe che è Zardon non avrà più bisogno neppure lui di darsi troppo da fare per la famiglia. Ora avranno il calzolaio in casa, disse quella che si chiamava Vera. Nadia, un'altra sorella, mentre stendeva i panni appena sciacquati, si voltava ogni tanto a sbirciare dentro la finestra aperta del suo nuovo inquilino. E sbucando improvvisamente da dietro il lenzuolo urtò nella signora Lobova che abitava in quello stabile che, entrata nel suo alloggio pian terreno e aperta la finestra, gridò: togliete subito quegli stracci che avete messo davanti alla mia finestra! E beh, se non lo so facessi, chiese Nadia in tono arrogante. Che ecco che cosa succederebbe, strillò la donna e, afferrata la scopa, diede un energico colpo col manico alla corda tesa che oscillò facendo cadere a terra parecchi capi di biancheria. Sentì ribollire, aveva un po' paura di quella Maruscia Lobova, orgogliosa, piena di sussiego e impulsiva, il cui marito occupava un posto abbastanza importante a Orel, ma la biancheria tutta insudiciata per terra e il fatto di sentirsi al sicuro dato che Maruscia si trovava in casa aumentò il coraggio di Nadia, che tolse ogni freno alla lingua. Donnaccia, spudorata, cagna! Avanti, avanti, continua ad abbaiare, sibilò Marruscia all'Ocuba. Non sono io la cagna, sei tu! E infatti, non sei degna neppure che ti guardi un cane, zitellona! Non è vero? Ah, no, eh? No! D'improvviso Marruscia spiccò un salto dalla finestra e piombò nel cortile. Aveva indosso soltanto una vestaglia che si impigliò nella ringhiera, così che apparve completamente nuda, mostrando il dorso e le gambe a Nadia, atterrita. Marruscia liberò al più presto la vestaglia, ma nel frattempo Nadia, che si era riavuta dalla paura ed era sfuggita in casa, a gambe levate e chiudendo dietro di sé la porta a catenaccio, poco dopo aprì un finestrino in alto e si affacciò per osservare al sicuro ciò che sarebbe ancora successo nel cortile. Marruscia, vedendolo, le mostrò il pugno, al che la Pogliarsky rispose tirando fuori la lingua quant'era lunga, e allora Marruscia le voltò le spalle chinandosi in avanti e alzando con gesto provocante la vestaglia di dietro. Nadia sputò con disgusto, ma non osò tornare in cortile finché Marruscia, alta e slanciata, col suo passo sciolto ed energico, non se ne fu andata con in testa, a mo' di trofeo, uno scialle rosso sanguigno. Dopo pranzo, di solito, le sorelle Pogliarsky si abbandonavano con voluttà alla più velenosa maldicenza, spettegolando su tutto e su tutti, e in particolare sui vicini. Dai motivi più futili deducevano conclusioni estremamente avventate e nessuno riusciva a sfuggire alla loro linguaccia biforcuta. «Sono proprio curiosa di sapere a che razza di uccelli appartiene il nuovo inquilino», disse Luba. «Beh, non sarà certo venuto per nulla a stare dalla Nazevich. Avrà saputo che è vedova e si sarà immaginato che abbia dei quattrini», buttò lì la Nadia. «Io credo, invece», disse Vera, «che gli abbia fatto gola la Elena. La più vecchia delle sorelle, la cinquantenne Pulcella Liuba, balzò in piedi. «Ah, andrò a vedere io, col pretesto di far riparare qualcosa». Scovò un paio di pantofole scalcagnate, si infilò un giubbetto preistorico, si aggiustò in testa un cappello che forse era stato di moda alla fine del secolo XIX e uscì dalla casa. Le due sorelline minori corsero ad appiccicare il nasetto ai vetri della finestra. Baran era in casa quando Liuba Pogliarsky bussò alla sua porta. Stava mettendo in ordine gli arnesi che la mattina stessa aveva fatto venire assieme ad una quindicina di forme di legno. Faceva da deschetto una cassetta capovolta con gli spigoli orlata di latta ribattuta in su perché gli arnesi e i chiodi non cadessero per terra, e c'era anche un piccolo sgabello da calzolaio. «Avanti!» disse Baran, udendo i colpi alla porta. La Pogliarsky entrò con un sorriso mellifluo sulle labbra, ma non andò molto oltre la soglia. I suoi occhietti aguzzi esplorarono rapidamente la stanza e cercavano persino di forare il paramento per vedere cosa ci fosse dietro di esso. Baran comprese a volo a quale categoria di gente appartenesse la zitella, si rabbuiò in viso e chiese seccamente: «Desidera?» La Pogliarsky allargò ancora di più il suo sorriso. «Vi ho portato nel lavoro», e gli porse le pantofole. Baran le prese in mano e le esaminò con attenzione, poi alzò sul Luba uno sguardo così espressivo che per poco la donna non si lasciò cadere sulla sedia che le si trovava accanto. «Beh, e che cosa volete che ne faccia di questa robaccia?» «Volevo appunto chiedervi un consiglio». «Beh, e allora buttatela nell'immondizia». Luba afferrò le pantofole senza salutare e uscì frettolosamente, sì, molto frettolosamente, dalla stanza. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Radio Azione. Punto.